Mio nome è Jonas. Jonas. Jonas. Carola e Gloria. Gloria. Prego. Gloria, questo è il vero futuro dell'artistico, ragazzi. Noi abbiamo messo una fontana, ovviamente per dare un po' di natura, no? Si sostituisce tutto, come si dice? L'asfalto. L'asfalto con erba, perché basta parcheggi, basta tutto. Poi mettiamo un muro bianco dove si può disegnare, liberi, tu puoi mettere quello che vuoi. Tranquillo. Poi si mette un carrello col cibo, qualsiasi cibo, quello che volete, bianco anche questo qua, così potete disegnare tutto. Delle panchine all'aria libera. Boh, direi quello. Che futuro. Volete aggiungere qualcosa? No, io no. Avevano detto che pensavano di fare all'interno poi della scuola, cioè di mettere qualche pannello fuori per fare ecosostenibile. E poi pannello di che tipo? Per esempio? Quelli solari, per esempio. Pannello solare. Sì. Ok. E magari metterli qua sopra oppure anche comunque intorno. No. Va bene. Grazie. Grazie a voi.